Bentornati a tutti quanti su questa nuova puntata di G-Cookies. Siamo alla numero 24, anche se siamo a meno di 2 anni, perché abbiamo fatto quel tentativo di 2 puntate al mese che è andato un po' storto. E oggi siamo ben in 4 a parlare, quindi vi presento i miei amici al microfono. Direi da cominciamo da Berlino con Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti e bentornati. E da Torino c'è l'ospite che ci farà compagnia oggi, c'è Rosario. Ciao a tutti. Grazie per essere venuto con noi oggi, ti sfrutteremo un po' per le tue conoscenze sul discorso principale di questa giornata. In questa puntata parleremo essenzialmente di Linux, visto che ottobre è un po' il mese di Linux. Il 22 di ottobre in tutta Italia c'è il Linux Day e in ogni città che si rispetti c'è qualche cosa di organizzato per diffondere la conoscenza di Linux, del software libero e di tutta questa compagnia. Dico bene, Rosario? Sì, certamente. Diciamo quest'anno i Linux Day in Italia saranno circa una sessantina. E ci auguriamo vada tutto bene e che ci sia sempre maggiore coinvolgimento. Bene, bene, bene. Mario e Giuliano, voi avete mai partecipato a un evento simile? Io non so se in Germania c'è una cosa del genere. Mi sa che è una roba mondiale che poi è applicata sui vari stati. Io purtroppo, per una serie di sfortunate circostanze, sto saltando tutto negli ultimi anni, dalle Make Fair, alle Linux, anche un Vim Festival che è stato questa settimana fa, non sono riuscito a starci, quindi no. Cioè, purtroppo no, però appena posso penso di rifarmela. Beh, ma almeno sei andato all'Oktoberfest. No, sono andato a Monaco, sì. Ma non all'Oktoberfest, la sfiga somma. Sei proprio sfigato. vedi, lo so, mi dispiace. Ah, perfetto. Allora, io chiederei a Rosario quindi un po' di raccontarci le basi di, cioè, come è nato Linux e perché c'è questo sistema operativo che è il terzo rispetto, cioè, nella scala mondiale dei sistemi su PC è il terzo, non in ordine di utilizzo, ma è uno dei tre più grandi. Ci dici due cose su come è nato e perché? Certamente, allora, Linux in realtà, diciamo, quando noi parliamo di Linux è una parola, un gergo per definire la distribuzione GNU Linux, però, tra gli appassionati è palesemente, diciamo, importante definire una data, ovvero gli anni 90, quando grazie a Linus Torvalds e la creazione del kernel si è riuscito a garantire a un pubblico vasto, che appunto diventerà sempre più vasto, un sistema operativo completo. Infatti, se noi proprio volessimo fare una storia del sistema operativo, dobbiamo arrivare al 1983, quando Richard Stallman dà inizio al progetto GNU, che in realtà poi diventerà GNU nel 1984. Sostanzialmente Stallman lavorava all'MIT e decise di costruire un sistema operativo tutto suo basato sui sistemi Unix, e pian piano ha creato questa suite di programmi, al quale però mancava un nucleo principale, appunto kernel, dall'inglese kernel, cioè in realtà dal tedesco kernel, mi sembra. Comunque, sì, esatto. e praticamente poi dobbiamo arrivare fino agli anni 90, precisamente 1991, quando uno studente finlandese di nome Linus Torvalds, basandosi, diciamo, sulla struttura del sistema operativo educativo di Tenenbaum, che si chiama Minix, riuscì a creare uno spazio che facesse comunicare l'hardware con il software, ovvero il kernel, e lo chiamò Linux. Molto bene. E, che differenza c'è essenzialmente tra Unix e Linux? Allora, innanzitutto, diciamo, Unix potremmo prendere come punto di riferimento la, diciamo, i sistemi operativi della Apple, che sono basati su XNU, che è l'acronimo di XNU is not Unix, ed è la, diciamo, si potrebbe definire come microkernel, quindi non è una suite vasta di vari driver per gestire l'hardware, perché effettivamente i Mac hanno un hardware standard e quindi non c'è bisogno di avere una vastità di driver come quelli che invece deve offrire Linux. Infatti Linux viene definito come kernel monolitico e molte volte, tra l'altro, c'è anche il dibattito tra Tannenbaum e Torvalds negli anni 90, quando Tannenbaum dice: no, ma un kernel dovrebbe essere microkernel per essere più reattivo, e Torvalds invece dice: no, ma l'importante è garantirlo per tutti i dispositivi. Infatti Linux può essere installato dappertutto, mentre ad esempio macOS non può essere installato ovunque. Senti, bene, bene. No, scusa. Vai, Mario. Da quando uscì OS X, io sono un utente Mac da tanto. Cioè, dico, da quando ero piccolo, mio padre ha sempre usato Mac. Quando uscì Mac, questo era quello di cui si parlava, il famoso Mac kernel. Questi kernel di cui stai parlando. Mac kernel? Non capisco. Scusami, una cosa che ho sempre letto leggendo su cos'è OS X. OS X fondamentalmente, come dicevi, è anche basato su... correggimi, su Unix, no? O su Unix, sì. Sì, su BSD. Okay. E loro utilizzano, diciamo, anche un microkernel, ma in questa diatriba tra microkernel o kernel monolitico. Sì, microkernel si chiama XNU. Okay, perfetto. Quindi era per capire bene quale parte di OS X fosse... Sì, okay. Perfetto. Bene, e quindi è nato questo sistema operativo che è una alternativa... All'epoca mi pare che ci fosse soltanto DOS, se non vado errato, perché la parte Microsoft grafica ancora non c'era, giusto? Sì, no, nel 91 penso, cioè forse NT 3.1, DOS 3.1, quindi... Sì, beh, il macOS non c'era un grafico all'epoca. Sì. MacOS è stato, se non erro, il primo sistema operativo grafico, perché gli altri erano assolutamente testo, sia DOS che Linux. E forse Solaris. Sì, sembra di sì, anche Solaris, anche a me. Tra l'altro Solaris non è dove... No, spero, Next Step, una di quelle società dove ha lavorato Jobs, intanto che non era stato alla Apple, avevano sviluppato queste robe. Jobs aveva lavorato a Next, sì, se non vado errato. E... La grossa differenza che c'è alla fine tra Linux, Windows e Mac è il concetto di software libero, nel senso che Windows è un sistema operativo chiuso, nel senso che nessuno ha accesso alle righe di codice che lo compongono, e macOS, pur derivando da una parte open, quindi da FreeBSD, comunque è un sistema chiuso. Linux è un sistema open. Il concetto di open source ovviamente non si cala solo sul sistema operativo, ma su tutto quello che c'è intorno. È interessante capire cos'è il software libero rispetto al software gratis, perché nel mondo noi abbiamo un tot di software gratis, che c'è qualcuno che scrive e ce lo cede gratis, è un tot di software libero, che è una cosa sensibilmente diversa. Dico bene? Sì. Allora, praticamente il concetto di... cioè la pura definizione di software libero viene, gestita dalla Free Software Foundation con Richard Stallman, che appunto dal 1983 in poi si è dedicato a questa causa. Definendo il software libero attraverso quattro libertà che partono, diciamo, dallo zero, perché per gli informatici si parte dallo zero, quindi si spazia dalla libertà zero alla libertà tre. sempre, perché l'informatico comincia sempre a contare dal numero zero, e questa cosa crea un sacco di casini quando parli con i non informatici. Esatto. Allora, volendo possiamo anche elencarle queste quattro libertà. Sì, se hai voglia, sì. Poi comunque le mettiamo scritte anche sul sito, oppure se hai un link della pagina dove si descrive questo, ce lo fornisci, noi lo piazziamo lì. Volentieri. Allora, partiamo dalla libertà zero. La libertà zero è la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Poi prosegue con la libertà 1, la libertà di studiare il programma e modificarlo. Poi la libertà 2, redistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. E la libertà 3 è migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Perfetto, adesso io faccio un po' l'avvocato del diavolo, mettiamola così. Come giusto che sia. Se, eh beh, giusto, no, ma perché questa cosa dà comunque molto molto da discutere sempre. Microsoft guadagna perché vende il suo sistema operativo. Canonical, ne prendo una qualunque, la più conosciuta, non vende il suo sistema operativo, che è la Ubuntu. Poi parliamo delle distribuzioni, che è una cosa interessante. Come fanno quelli che lavorano nel software libero a guadagnarsi la pagnotta? Perché in effetti nessuno lavora per la gloria. Se si lavora, serve, cioè l'affitto non viene pagato, perché io sono bravo e ho partecipato a scrivere un sistema open source. Il padrone di casa ti dice: tante grazie, ma voglio i miei soldi. Come fa una persona che dà il software gratis a vivere su questa cosa? Allora, diciamo io qui procederei per esempi, ma per esempi anche diciamo in altro ambito. Se io pago l'imbianchino per imbiancarmi casa, lui verrà retribuito. Verrà retribuito, imbianca casa, poi va via e non avrà uno stipendio a vita perché mi ha imbiancato la casa, o se vuole, diciamo, continuare, cioè se io devo di nuovo ristrutturare casa, non dovrò per forza chiamare sempre lui. Posso chiamare chiunque, perché, diciamo, quell'attività pratica non è brevettata. Ora, quello che fanno le software house, sfruttano, diciamo, il codice sorgente cioè tendono a bloccare il codice sorgente per specularci sopra, è una garanzia a vita di ottenere degli introiti attraverso i diritti, i copyright. E questo avviene in realtà, diciamo, nel mondo digitale avviene un po' troppo spesso e in molti, e forse anche troppi ambiti, come l'ambito multimediale, ad esempio l'ambito discografico, che infatti si sta adeguando, l'ambito cinematografico non ne parliamo, e ovviamente anche nel mondo del software. Parlerei anche della parte libri, se non Sì, vado errato, esatto. perché ormai tutto quello che si utilizza in digitale non è più tuo, ma è concesso in licenza. Dico bene? Sì, no, ma in quel caso, nell'ambito dei libri, forse, cioè, già si potrebbe partire dalle case editrici, quindi anche per libri cartacei, eccetera. E poi, ancora peggio, la questione che accenni tu, che è quella dei DRM, che sostanzialmente negano appunto anche la proprietà di avere un libro con sé, quindi di poterlo prestare, e tutti i diritti che esercitiamo sui libri cartacei, ad esempio. Bene, quindi praticamente torno a Canonical dice: il software è open source perché comunque la licenza di Linux mi impedisce di venderlo, giusto? Io, se tu vuoi e se ne hai bisogno, ti posso mettere a disposizione la mia competenza per spiegarti come funziona, fartelo funzionare, farti dell'assistenza se non funziona. Io guadagno su questa cosa, ma non sulla licenza del sistema del sistema operativo. Sì, del prodotto in sé, esattamente così. Perfetto, quindi io al posto di venderti un brevetto ti vendo la mia competenza. Esatto, quindi ad esempio per un'azienda, per una realtà aziendale, avere a disposizione dei tecnici che a seconda del contratto potrebbe essere 7 su 7 o diciamo prestazioni occasionali eccetera, riesce a intervenire sul software, magari ampliare le opzioni, perché magari se c'è un'azienda che ha bisogno di una necessità particolare cerca di delle persone che riescano a intervenire velocemente, rapidamente, e nessuna azienda ha le possibilità di permettersi degli specialisti su un determinato prodotto il più delle volte. Ho capito, è una cosa che soprattutto con Windows non puoi fare, cioè se in azienda tu hai Windows e hai bisogno di modificare il sistema operativo per un qualunque motivo, non puoi farlo, punto. Con Linux, se tu chiami qualcuno che sa farlo, lo paghi e lui te lo modifica su quello che a te serve. Esatto, ad esempio nel ramo embedded esistono un sacco di distribuzioni ad hoc per dei macchinari, anche industriali, quindi molto complessi, realizzati proprio ad hoc per la necessità. E direi che è importante anche dire questo, che tutto quello che viene fatto su base Linux, essendo che deriva da una licenza di tipo open source, deve essere rilasciato in open source. Non può essere rilasciato chiuso e basta. Quella caratteristica che hai appena citato viene definita copyleft. Ed è sostanzialmente un meccanismo virale, è anche un colpo di genio che è arrivato a Stallman quando dalla GPL, dalla licenza, la GNU Public License, è aggiornata la versione 2, quindi la GPL versione 2, inserisce questa caratteristica virale, ovvero qualsiasi cioè tu puoi modificare il sorgente, puoi redistribuirlo, puoi fare ciò che vuoi, partendo dalle quattro libertà che avevamo accennato, però il prodotto finale che vai a realizzare lo devi rilasciare in maniera open source, cioè più che open source, secondo la stessa licenza. Quindi ad esempio se facciamo un'analisi delle varie licenze che sono disponibili attualmente nel panorama del software libero, noi abbiamo la GPL, come avevo già detto, poi abbiamo anche l'Apache, la versione 2, ad esempio con Apache 2 ci sono vari prodotti, soprattutto nell'ambito dello sviluppo web, quindi framework eccetera, e poi l'MIT è anche una delle più utilizzate. Però l'MIT ad esempio non ha la caratteristica di essere copyleft, quindi io posso prendere un prodotto dell'MIT e renderlo, diciamo, rendere qualche componente proprietaria, cioè quella che ho fatto io, esattamente il codice che ho modificato, proprietario. Mentre con la GPL dalla versione 2 in poi questo non si può più fare. Ho capito bene, quindi diciamo che alla fin fine quello che sta alla base di Linux, senza parlare di tecnicismi, cioè di codice, è una filosofia diversa da quella che c'è negli altri due sistemi operativi, esatto, giusto? Esatto, sì. Mi pare che Giuliano avesse qualche cosa da dire, però non, mi sembra che non lo sentiamo. Mario, ne sai no, qualcosa? No, ci stavamo scrivendo, dice che stavamo che controllo, perché io vedo dalla chat che non è mutato, quindi magari sul lato suo, vedremo. Ah, boh, ok. Intanto andiamo. Speriamo. Giuliano, ti aspettiamo. Allora, passando dalla parte di filosofia più alla parte pratica, chi può provare un sistema operativo Linux? Praticamente tutti. Ma la parte difficile adesso è quale distribuzione scelgo? Anzi, per partire, per tornare un attimo più su, cosa sono le distribuzioni Linux? Perché io so che Windows c'è 7, 8 e 10, di macOS c'è 10.10, 10.11, 10.12, ma di Linux ci sono tutti questi nomi strani: Fedora, Ubuntu, Debian, Slackware, eccetera. Esatto. Perché c'è tutto questo, questa variazione, insomma? Allora, per lo stesso, diciamo, per lo stesso motivo di ciò di cui parlavamo prima, ovvero il fatto che noi possiamo modificare il sorgente e adattare il software alle nostre esigenze, cioè non è più l'utente che si adatta al sistema operativo che si ritrova, ma è lui che adatta il sistema operativo alle sue esigenze. Quindi ovviamente questo ha creato una diramazione sempre più fitta di distribuzioni, perché diciamo ogni sviluppatore ha le sue esigenze e ogni utente che segue lo sviluppatore ha anch'esso le sue esigenze, quindi fiondano, diciamo, distribuzioni, ce ne sono un sacco. Le più stabili, partendo un po' da diciamo le due distribuzioni principali che sono nate subito dopo il rilascio del kernel Linux, abbiamo la Slackware, che adesso diciamo non è più molto user friendly, però è ancora sviluppata in una maniera un po' particolare, e Debian, perché il progetto Debian nasce nel 1994, esattamente quando è nata Slackware. E poi da lì si sono diramate varie distribuzioni, come la già citata Ubuntu di Canonical, che ha investito tanto nel supporto utente e soprattutto anche nella community, e quindi è una delle più utilizzate, cioè, perché è una delle più seguite da questo punto di vista. Diciamo che è anche una delle più facili, nel senso che se c'è qualcosa che non va, io ci ho provato il forum, è pieno di gente che ti aiuta, che ti dà una mano, mentre invece se cominci con Slack è veramente per tosta. È per gli uomini duri, nel senso Slack è, parti davvero da, hai un prompt che lampeggia e ti chiede, e mo che fai? Ubuntu, diciamo che il setup è tipo Windows, nel senso metti il CD ed è molto molto semplice. Io conosco persone che sono dei, come dire, advocate di OpenBSD, che mi hanno detto che è ancora peggio. Sì. L'OpenBSD, sì. Dici? Ah, io sai che non ci ho messo mai le mani sopra. Io per esempio ho lavorato con Red Hat e l'ho odiata profondamente. Il mio lavoro è quella standard, perché c'è il supporto, come se professionale, c'è il supporto che si paga e quindi tu puoi venderlo a Enterprise, fondamentalmente, quindi tutti che sanno a bestemmiare dietro Red Hat. Eh sì, perché lei è oggettivamente a pagamento, ma come a pagamento il supporto, come hai detto prima, non lei di suo, che lei la Red Hat la può installare chiunque. Sì, però non ti danno nessun tipo di supporto, se non erro non la aggiorni neanche. Non lo so. In realtà la Red Hat ultimamente, qualche mese fa, hanno dato la licenza, una specie di licenza casalinga, quindi ogni utente può installarsi la Red Hat. Prima non era così. E tra l'altro, quando si scarica la Red Hat, bisogna accettare di utilizzarla solo per uso personale. Ah, ecco, perfetto. Quindi per azienda comunque devi prendere quella lì con il supporto. Esatto. Oppure si usa CentOS, che se non erro è la derivata della Red Hat, ma non con il supporto. Esatto. Anche molto Fedora. Bello. Fedora è la parte community di Red Hat, diciamo, e ha lo stesso, diciamo, lo stesso core, quindi software. Ad esempio il gestore di pacchetti RPM, poi anche DNF ultimamente, o si può ancora utilizzare quello vecchio denominato Yum. Ah, giusto. Ah, perfetto. Senti, ok, io avevo una domandina, se Giuliano non c'entra da dire, se è tornato. Se non mi ricordo male, alcune delle distribuzioni tipo Ubuntu, che sono state fatte per essere, come dire, più friendly di altre, hanno poi alla fine fatto un po' di, come dire, compromessi dell'utilizzare robe proprietarie e nome. Ci sono alcune distribuzioni che sono dure e pure, se non sbaglio, come la OpenBSD, in cui c'è solo roba free è per questo che rimangono un po' indietro rispetto a altre, però lì sei talmente sicuro che hai solo roba open source all'interno del tuo sistema operativo. Ma correggimi se sbaglio. Sì, diciamo, qui bisognerebbe un attimo aprire il discorso tra, e questo solitamente lo chiedono in molti, ma quando parliamo di open source e parliamo di software libero, parliamo della stessa cosa? E io direi no, nel senso che sono due definizioni completamente diverse. È molto più probabile che un software possa essere definito libero e anche open source, ma non che un software open source possa essere definito libero. E quindi la logica, ad esempio, di Canonical è più orientata all'open source, tant'è che si parla sempre di Ubuntu Linux come definizione, mentre Debian, il progetto Debian, che abbraccia perfettamente quelli che sono i canoni del software libero, viene definita Debian GNU Linux. Ah, ok. Però, cioè, diciamo, qui cioè, se noi valutiamo la maggior parte del software esistente nel mondo del FLOSS, che è un acronimo per definire il software, esatto, software libero open source, le differenze sono davvero minime. Beh, diciamo che per l'utente, come dire, medio, non gliene frega assolutamente niente, mette il sistema più bello e che funziona meglio per lui. Poi quei pochi, cioè, sono anche quelli che vogliono essere, diciamo, anche a livello di, pensi di metterlo da te come per usarlo per lavoro eccetera, sapere che hai tutto sotto il tuo controllo, che è tutto libero, ti dà anche un livello di sicurezza migliore. Cioè, anche nessuno può venire a rompere le scatole con licenze software eccetera, per dire. Esattamente. Ok. Adesso parlerei un attimo di un po' come è fatto Linux, nel senso, noi abbiamo in mente Windows, che Windows arriva come un enorme bogolone con dentro tutto. La stessa cosa vale per Mac. Linux, se non erro, è fatto un po' più a scatoline piccole, cioè Linux vive anche soltanto con il kernel, che è un pezzetto molto molto piccolo che gli permette di partire, parlare con l'hardware e basta. Poi piano piano si mettono sopra tutti i vari singoli software, nel senso, in Windows il comando copy fa parte di Windows, in Linux il comando cp è un comando che è extra. Sbaglio o dico la cosa giusta? Non è corretto. Quindi ognuno può sviluppare dei micro programmini Elia, e sono stati sviluppati nel tempo per migliorare tutto quello che è la funzionalità del sistema operativo. Aggiungerei che Windows, per esempio 95-98 fino al server 2008, era un unico pezzo, parte grafica e parte testuale, anzi la parte testuale era nient'altro che una parte testuale finta, mentre su Linux il sistema grafico non è altro che un software che si installa sopra il kernel, quindi si può decidere se avere solo la parte testo senza mettere la parte grafica. Senti, esatto. Posso fare un appunto mentre parli? Una cosa che mi ha fatto venire in mente. Prego. Che mi piace anche molto a me, io sono un utente Mac, però sto vivendo veramente quasi sempre in command line. Quello che tu dici, correggetemi se sbaglio, è la filosofia Unix o Linux, cioè Unix in generale, cioè l'idea di avere tanti microcomandi che fanno una cosa sola bene e comunica in maniera, come dire, efficiente con gli altri comandi. Quindi l'esempio di Francesco del CP, che lo stavo vedendo su Wikipedia, CP faceva parte della prima release di Unix, il 71, il comando CP in particolare, quindi è preistoria proprio. Beh, comunque fare copie dei file è sempre tornato utile. Il comando specifico CP già dall'inizio. E un'altra cosa che è interessante dire, poi mettiamo il link di distribuzioni Linux, ce n'è tantissime. Sulla wiki c'è una pagina con un bellissimo grafico su da dove sono partite tutte le distribuzioni, quando sono nate e quando sono morte. È un grafico che, se stampate, occupa tipo 5 pagine in A4 in verticale ed è bellissimo. Sì, infatti prima mi sono proprio riallacciato a quel grafico. Ecco, perché davvero si capisce bene quale giro hanno fatto le distribuzioni, come si sono divise tra di loro, chi è sopravvissuta, chi è morta, eccetera. Comunque direi che attualmente, per chi vuole cominciare, per mettere le mani su, su, su Linux direi che la Ubuntu va benissimo. E l'altra che assomiglia molto a Windows, quindi non mette troppo in difficoltà con l'interfaccia grafica, è la Mint, se non erro, vero? Sì, infatti io diciamo, come siccome mi occupo anche di assistenza presso uno sportello Linux che facciamo ogni mercoledì dalle 18 alle 20 a Torino. Dove? Presso Casa del Quartiere. Ah, ok, mettiamo poi il link così gli ascoltatori torinesi, dopo essere venuti a Linux Day, possono venire lì se hanno bisogno di una mano. Ovviamente. In quel caso noi consigliamo sempre una Mint Debian per iniziare, perché okay, diciamo è l'ottimo compromesso tra un'interfaccia molto user friendly e anche i principi del software libero. Perfetto, io consiglio anche a chi comincia con Linux a cercare di sbattere un po' la testa e provare con la riga di comando, perché la riga di comando è di una potenza veramente non da poco, e mi sembra che Mario ne sappia qualche cosa, perché Mario fa davvero l'impossibile, sì, infatti, vero? Tra l'altro, se riallacciamo cioè la puntata precedente, su qualsiasi sistema siete, se siete su Linux ovviamente non vi servirà, però già se siete su Windows o su Mac e avete paura di fare bordelli, potete installare una roba tipo Docker, una macchina virtuale qualsiasi, mettete una roba veloce tipo Debian e mettete lì e potete distruggere tutto all'interno senza avere problemi e rimorsi, e quindi potete cominciare a sperimentare lì dentro. Sì, se no c'è, se volete fare anche le cose facili, o fate partire una live da un CD o da una chiavetta USB, che è più comoda perché potete salvarci i dati dentro, oppure fate una macchina virtuale dentro VirtualBox, giusto per cominciare. Esatto, tra l'altro anche in ambito security sarebbe il caso di utilizzare delle chiavette live, ad esempio per gestire operazioni bancarie di home banking, perché diciamo finisce la sessione, si conclude la sessione e non rimane nulla. E soprattutto se si becca una qualche schifezza, la schifezza resta lì e non infetta il resto del PC. Anzi, è ancora meglio farlo con un CD. Il CD non può essere scritto, si fa tutto quello che si deve. Soprattutto la macchina resta anonima. Esatto. Se si vuole fare un po' di attenzione sulle proprie tracce che si lasciano in rete, anche se si naviga in navigazione in incognito, c'è un sito che fa questi test qua, devo andarlo a raccattare. Praticamente, allora, di solito quando si naviga su internet, qualunque sito può vedere quali sono i cookie lasciati all'interno del browser, quindi per esempio Facebook può fare tracking su qualunque sito voi stiate andando, gli altri siti sanno qual è il vostro utente Facebook, eccetera. Se mettete in incognito, tutte queste cose non ci sono, e soprattutto quando il browser viene chiuso, tutti i cookie di quella navigazione e i file temporanei vengono cancellati. Ma comunque il PC lascia un'impronta che è molto molto particolare, nel senso che quando un sito chiede chi si sta collegando al mio server, il PC risponde con una serie di dati, e anche in incognito questi dati sono talmente specifici che si è quasi comunque soltanto noi abbiamo questi dati anche navigando in incognito. Se noi mettiamo una live su CD, le cose cambiano, perché la live su CD è la stessa per tutti e si è molto più anonimi. Sì. Tra l'altro, molto bene, non molto bene. Correggetemi di nuovo se sbaglio, ma ricordo che distribuzioni tipo Chromium, cioè quello utilizzato da Google per i suoi device, sono fatti in modo proprio che a ogni avvio ricontrolla il checksum del sistema operativo. Cioè, comunque, anche se tu lo metti su un media scrivibile, se viene cambiato qualcosa, lui si ritira giù tutto il sistema operativo, lo ristalla e riparti da lì. Quindi, anche se usi un media non CD, come dicevi tu, potresti avere lo stesso livello di sicurezza. Sì, la parte Chromebook, sì, dici. Però Chromium di suo, il sistema operativo, che diciamo che potresti mettere anche su una chiavetta, una roba del genere. Sei sicuro? Tantissimo, però penso di sì. Ah, ecco. Perché non sono sicuro, perché Chromium è il browser, è il core open source dal quale sono partiti quelli di Google per fare poi Chrome. Sì, ma mi sa che il sistema operativo Chromium OS è il sistema operativo che utilizzano i Chromebook, cioè un sistema operativo di suo. Sì, c'è anche la versione, diciamo, open source chiamata Chromium OS. Esatto. Forse ti riferivi a quella, però diciamo io come live per le mie chiavette USB utilizzo Tails. Perché sfrutta anche la rete Tor, che ovviamente diciamo per fare operazioni di home banking non è il massimo, però diciamo se vuoi navigare in rete giusto diciamo un'oretta, due orette, che vuoi fare delle ricerche, non vuoi lasciare tracce, diciamo è carina, come è basata su Debian tra l'altro. Come si chiama di nuovo? È Tails. Sì. E la distribuzione che consigliava, non mi ricordo se Snowden o Assange. Forse entrambi. Perché poi ho anche visto che nell'ultimo periodo, sempre derivata da Linux, la parte bella di Linux è che sono partiti tanti di quei progetti basati sullo stesso kernel che fanno cose totalmente diverse. Da Windows e da Mac queste cose non sono possibili. C'è questo sistema operativo che mi pare si chiami Cube OS, sì, che crea delle specie di delle bolle di virtualizzazione, le quali non parlano una con le altre. Di conseguenza tu puoi tenere il lavoro da una parte, la cosa personale dall'altra, e nessuno delle due bolle sa che cosa fa l'altra. Sì, sì. Volevo provarla. Cube OS, no. La C o la Q? Perché non trovo di due. È con la Q, mi sembra. Sì, sì, con la Q. Tra l'altro creata da una, credo, è un'iniziativa di una giornalista, credo, anche sviluppatrice, ora non mi ricordo il nome, però è basata su Fedora questa distribuzione. Stavo vedendo adesso il sito e dice un sistema operativo ragionevolmente sicuro, quindi non sono troppo, non si sbilanciano. Ma se non erro, QBS non va in automatico sulla rete Tor. Mi pare che Tails, se non si attacca sulla rete Tor, non va da nessuna parte, cioè è proprio vincolato. C'è la versione, diciamo, di Firefox chiamata tipo Unprotected Browser, con tanti simboli rossi per dirti no, utilizza la rete Tor perché sennò sei a rischio. Ah, ecco, perfetto. Bene, bene, bene. Allora, vediamo la scaletta, dove siamo giunti, perché qua se cominciamo a divagare, direi che con questa non usciamo più puntata possiamo finire circa a mezzanotte l'una. E, un'altra cosa di cui si parla molto di Linux in questo periodo è la parte che Canonical ha fatto un accordo con Microsoft. E su Windows 10, solo 64 bit, si può mettere un pezzetto di Linux dentro Microsoft. Tu che ne pensi? Io Rosario? Diciamo, penso, sostanzialmente riprendo un attimo lo stesso discorso che facevo con cioè parlando di Canonical e l'open source. Nel senso, l'open source rischia a volte di essere sfruttato per esigenze di mercato. Certo. Però cioè, e questo diciamo da un certo punto di vista è un bene, perché diciamo fa parte del concetto di viralità dell'open source, quindi si diffonde molto più velocemente anche quando scende a compromessi, quindi io diciamo è come se avessi due anime, la parte etica ovviamente è contraria, però la parte un po' più aperta, un po' più open magari è favorevole. Perché anche diciamo l'utente si renderebbe più propenso poi ad adottare in pieno distribuzioni Linux, ad esempio come Debian in futuro. Bene, bene, ma tu per caso l'hai provata? Avevo provato le prime versioni, in macchina virtuale, però non ero molto soddisfatto, nel senso non si possono fare le stesse cose che si può fare con Linux. No, no, guarda, io così per test l'ho messa su. Praticamente hai una specie di Ubuntu, ma che è limitata su un sacco di cose. Per esempio è un'applicazione all'interno di Windows. Se tu chiudi quell'applicazione, lei non continua a girare come servizio sotto e quindi perdi tutto quello che avevi lasciato aperto. Piuttosto che praticamente non hai accesso alla parte di rete, non fai neanche il ping. Questa roba mi mette orrore comunque quando me l'hai detta. E diciamo che per chi vuole provare a fare qualche cosa di scripting usando i dischi di Windows, a questo punto mettete su una macchina virtuale che è più, perché tra l'altro metti insieme lo scripting shell, che già è un delirio, poi in più i path di Windows fatti scritti a caso, cioè... Sì, li hanno modificati con /MNT/C/Windows eccetera. A me, diciamo, dava più soddisfazione Cygwin come progetto. Sì, usato. Era... Sì, che era quella trasposizione Linux installata comunque sotto Windows, quindi ti dava alcuni comandi, ma direttamente dentro Windows. Sì. Non era... E il ping lo faceva. Ecco, sì. No, qua no. Cioè, la cosa bella, uno dice, boh, voglio fare qualche cosa con il Crown Tab, non puoi farlo, perché o hai l'applicazione aperta o il Crown Tab comunque non parte. Ma quindi hai il Crown Tab dentro Windows? Ha il Crown Tab dentro l'app che sta dentro Windows, ma se tu chiudi l'app il Crown Tab non può partire. Ma quindi aspetta, ho capito che è una specie di virtual machine all'interno, o come funziona? Sì, è una virtual machine con alcune cose già pre-condivise. Non so se ti ricordi come è fatto VirtualBox. Tu puoi condividere una cartella tra l'host fisico e quello virtuale. Quello è, probabilmente hanno basato sulla stessa roba con cui hanno fatto una nuova versione di Docker che utilizza un hypervisor nuovo. Cioè l'hypervisor è quello strato che fa il controllo delle macchine virtuali, si tiene conto di dividere i namespace eccetera. E sia per la versione Docker per Mac che per Windows sono passati da usare VirtualBox, che era una roba extra molto grande. Per Mac hanno utilizzato uno che è una estensione di uno per Fedora, mi sembra, e per Windows hanno utilizzato uno che è stato scritto per la parte server di Windows, che si chiama... Se è quella Microsoft, è Hyper-V. Esatto, ok. Sì. E quindi quello ti permette di fare robe molto snelle e trasparenti per l'utente, visto che è una roba che è all'interno del sistema operativo. Comunque, secondo me, se si vuole provare Linux, si crea una macchina virtuale. Anzi, se volete provare Linux senza dover diventare matti con VirtualBox, poi non si accende... Di qua di là, quello che io consiglio sempre è comprarsi o prendere un vecchio PC e metterci sopra Linux, o comprarsi un Raspberry, si mette Linux sopra e si fa tutto quello che si vuole. 30 euro è risolto. Sì, 30 euro più l'alimentatore e la scheda, 50. Diciamo 50 sì. Tutto, sei uno schermo con cavi e tutto. Sì, sei a posto così. Esatto. È stato, diciamo, secondo me, una mossa di marketing che ha giovato sia a Microsoft, che ha detto guardate come siamo bravi noi che abbiamo messo Linux su Windows, sia a Canonical, che è entrata in un mondo dove prima non entrava, ma secondo me in azienda sta roba non la userà nessuno. Esatto. Comunque avevo trovato una vignetta di un webcomic di un sviluppatore francese proprio su sta roba, che era bellissimo, se la trovo ve la passo, dove lui ricordava da piccolo che la mamma, tipo, per far rifare il bagno gli dava i suoi biscottini, e poi c'è la scena dopo dove lui sta alla presentazione della Bash per Windows. Cioè, questa roba mi ricorda qualcosa. Esattamente quello. Sì, è un accordo che secondo me comunque farà gioverà a entrambe, perché se non erro anche Canonical ha preso qualche cosa da Microsoft da mettere nei suoi sistemi, ma non mi ricordo cosa. I virus probabilmente. No, non penso, dai. Okay, e comunque, secondo me, provare Linux... Allora, se si lavora nell'informatica, una persona che lavora nell'informatica e non sa usare Linux, non si può dire che lavori nell'informatica, punto. Ma da persone comuni, adesso diciamo che non è ancora l'anno di Linux sul desktop, perché ancora qualche cosa manca. Ma persone che usano Windows in maniera basilare usano Linux esattamente nello stesso modo. Io ho passato dei parenti con vecchi PC da Windows a Linux, non mi hanno neanche chiamato per chiedermi supporto dopo. Soprattutto negli ultimi anni che il problema grosso sono sempre stati i driver dei dispositivi. Qualche anno fa mettere una stampante su Linux poteva essere una sfida interessante. Adesso si attacca, funziona, per fortuna. Sì, diciamo la sfida interessante ancora rimane purtroppo su molti dispositivi. Comunque io, diciamo, ogni volta si parla sempre l'anno di Linux, ma riusciremo a portarlo sul mercato desktop, eccetera. Però diciamo, è un argomento molto complesso, nel senso, se noi andiamo in un negozio qualsiasi troviamo preinstallato diciamo, un sistema operativo, chissà quale, e questo è già un problema, nel senso, ci sono altri stati dove ad esempio si può scegliere di il sistema operativo che verrà utilizzato sul computer che andremo ad acquistare, ed è una cosa che ad esempio in Italia non si può fare. Sì, si può fare, ma se sei già uno smart che va a comprarsi il computer nel negozietto, anzi, ma mettiamola così, il negozietto ti installa Windows senza venderti neanche la licenza. Ok, però cioè non era quello che dicevo, che intendevo io, nel senso, se io vado anche in qualsiasi negozietto, catena di distribuzione, e prendo un computer, il computer è stato venduto a quel negozietto, a quella distribuzione con Microsoft Windows. Ah, sempre, sì, no, ma io parlavo di PC desktop che tu ti monti, sai, quando vai... Sì, preassemblati, sì. Voglio quella scheda madre, quella CPU, questi due moduli di RAM, ma non c'è tantissima gente che fa, vabbè, che poi fa così. Questo per il laptop vale meno. No, per il portatile non puoi assolutamente farlo. Forse c'era soltanto Dell che vendeva un Inspiron con Linux sopra. Guarda, io... anche l'XPS, esatto. Developer Edition, sì. Ma neanche quello non developer puoi averlo con Ubuntu. Stavo controllando oggi perché sto pensando di prenderne uno. Sì, però diciamo sono dei progetti molto, diciamo, quasi a goccia. Sì, sono proprio assolutamente delle nicchie. Se tu vai da Media World e vuoi un PC qualunque, non puoi comprarlo senza Windows, è guarda, impossibile. Non so se voi ricordate, io ricordavo di aver letto in giro thread di persone che si erano messe, avevo fatto poi richieste ex e farsi rimborsare, ridando indietro il CD o DVD o quello che c'hanno modi Windows per la parte di installazione, però sono cose epiche, quasi nessuno ha voglia di farlo. Ma no, sì, infatti in realtà c'è anche un'iniziativa del tutto italiana, di Italian Linux Society, che dovrebbe chiamarsi Il mio sistema operativo, che praticamente aggiorna l'utente su il rimborso che le case come Asus, Acer, eccetera, potrebbero rimborsare all'utente che acquista un computer con Windows se non l'ha utilizzato. Cioè, se io compro il portatile, non accendo neanche una volta il portatile, installo subito, che ne so, Debian, posso chiedere un rimborso. Non rimborsano proprio tutti, e soprattutto non rimborsano una cifra eclatante, però qualcuno rimborsa. Ma il fatto è che se tu compri la licenza OEM di Windows mi pare che costi una novantina di euro. Sì, se le mie cifre erano 70 euro. Ecco, sì. No, se tu la compri in un negozio, cioè quando tu compri una scheda madre per le regole Microsoft delle licenze OEM, ti puoi comprare la licenza Windows da legare a quella scheda madre. Il fatto è che facciamo 70 euro. Io ho comprato un portatilino della Dell che costa 205 euro. Se ne togli 70, davvero resta veramente niente. Anzi, devi anche toglierci l'IVA. Praticamente Microsoft, secondo me, cede le licenze quasi gratis a patto che tutti abbiano Windows. Penso proprio di sì, come fanno molti altri produttori con l'hardware. Ci vai a perdere piuttosto di aumentare la tua diffusione. E infatti ora, per esempio, se tu sei iscritto all'università, Microsoft ti regala un sacco di licenze. Almeno quando io facevo informatica avevo accesso a tutto l'MSDN, tutti i software Microsoft, tutti gratis. Sì, c'è ancora oggi. E quindi praticamente tu ce li hai gratis, li usi, impari a usare quelli e quindi continuerai, esatto. su è come la droga, come dicevamo quando eravamo bambini, te la danno gratis e poi dopo ci rimane. Vero, vero. Esatto. Nel mio caso comunque è disattivato quell'account. Ok. È disponibile ma non l'ho mai utilizzato. Ma tu lavori sempre con PC Linux o hai anche qualche cosa Windows o altro? No, io Linux, principalmente Arch Linux, Debian e Fedora perché, cioè, in ambito aziendale, come si diceva prima, la più utilizzata. E cioè più che altro Red Hat based, ecco, non Fedora proprio. E sfatiamo un mito: tu con Linux riesci a fare tutto quello che dovrei che si può fare con Windows. Sì, anche di più, ovvero automatizzare certe cose che mi scocciano maledettamente fare, diciamo, nel quotidiano, tipo ad esempio conversione di file video, per esempio. Lì, se ho un 500 file da convertire, li metto in background con uno script bash e tanti saluti. Sorry, ma io ti bacio le mani per questa cosa. Io stavo giusto aspettando Mario che dicesse questo. Perché, guarda, ma io c'ho questo. No, scusa. Perché volevo dire, poi ti lascio parlare. Mario, quando noi pubblichiamo la puntata, ha tutta una serie di script che comprimono la puntata, la taggano, la caricano, cioè fa tutto quanto lanciando un solo comando. Esatto, cioè fondamentalmente con questo podcast che stai sentendo, una volta che abbiamo finito, Francesco fa la roba punta e clicca pallosa di rifare tutta la parte di montaggio audio, e per questo non lo ringrazieremo mai tanto, perché è una cosa noiosissima. Poi una volta che mi passa il file a me, io scrivo in Vim, in terminale, il post del blog. Poi il mio scriptino prende tutte le tag che sono scritte lì dentro, converte il file da WAV a MP3 taggando quella roba che ho scritto nel file testo, poi rimette dentro di tutte le cose tipo lunghezza del file, dimensione, eccetera. Finito ciò, uploada il file su Open Archive, tutto tramite script, usando certe robe di Amazon, di servizi di Amazon, e tutto ciò con un comandino e via. E ti dico, fantastico, che è cambiata la vita, perché prima stavi lì, facevi, cioè, e se ti volevo dire questo, dimmi poi se è la mia stessa impressione. Chi viene dal mondo Mac in genere, cioè un po', però Windows molto di più, l'esempio che facevi tu di convertire 500 file, per loro è come dire una croce che devono sopportare, cioè la vita è così, ti metti lì e premi solo il singolo file e lo converti a mano, cioè non c'hanno proprio la concezione che puoi farlo meglio o non lo so. È una cosa che notiamo frequentemente negli utenti, soprattutto Microsoft, perché diciamo l'utente Apple l'ho sempre definito come in due categorie: o il modaiolo, okay, oppure chi è il frustrato di Microsoft Windows, va al negozio e gli dicono ok, cioè o quello o il Mac. Esatto, quindi magari si butta sul Mac, scopre la console, è comunque un sistema Unix, e quindi rimane affascinato da certe cose che si possono fare. Però per molti purtroppo ancora è uno status symbol. Guarda, io ti dicevo, io utilizzo non Mac ma Apple da sempre, cioè io come voi umani usavate, non lo so, Commodore, io da quando avevo 4 anni avevo mio padre portava a casa l'Apple 2 e giocavo con quello, e da allora ho sempre usato Mac, tranne qualche piccola parentesi di Windows penosa al lavoro in cui ho pianto per le notti per usare sta roba. E boh, c'è tutta questa moda che c'è adesso, ti giuro, quello mi sta facendo un po' allontanare dal Mac, perché anche Mac secondo me, cioè Apple in generale, sta, come dire, c'è un po' un gioco a rincorrersi tra diventato uno status symbol per vari motivi, però sta diventando un oggetto di status symbol sempre di più. Vedi come i telefoni, per esempio, anche le macchine, cioè sta perdendo quell'impronta di innovazione, non lo so. Purtroppo sì, si è data al gadgettame, esatto, a mio parere. Esatto. E al costo estremo, perché stavo vedendo, ti giuro, oggi pensavo di cambiarmi il laptop, proprio l'XPS Dell 13 Developer Edition, il top gamma Dell ti viene a fare penso 1500-1600 euro, lo stesso oggetto Mac ti viene a fare 500 euro in più secchi per roba un po' meno performante come hardware. Esatto. Alla fine io uso tutto, nel senso che a casa ho il Mac su cui lavoro, ho un PC Windows su cui faccio le mie cose, ho 3 Raspberry e un portatile con Linux. Sono riuscito a trovare la quadra. Ognuno fa il suo mestiere, perché per esempio alcuni software che io uso e che non posso non non avere, sono solo su Windows. Io ho dei clienti che lavorano con Access e Access va su Windows, punto. E mi dispiace per te. E anche per me, grazie. E comunque ormai mi sono reso conto che nel 90% delle attività qualunque sistema operativo va bene. C'è una parte che ogni sistema fa e gli altri non fanno. Oddio, diciamo che fai con dolore, con alcuni e con altri sono facili. Però, per esempio, Microsoft con PowerShell ha fatto un grosso passo in avanti. A parte che io PowerShell, pur essendo molto potente, la reputo di una complessità devastante rispetto a una shell Linux. Sono dell'ignoranza, non ho idea di cosa. Allora, PowerShell è la riga di comando, la vecchia riga di comando DOS, ma molto molto più potente. Nel senso, puoi davvero fare cose che puoi fare come le fai con Linux. È molto più complessa, secondo me, rispetto a Linux. E ora, tra l'altro, Microsoft, per fare i belli, hanno rilasciato PowerShell in open source. Ah, giusto, l'avevo letto. È una roba di 2-3 settimane fa, penso. Ok. Sì. Allora, direi di passare al prossimo punto. Ci chiedevamo, visto che nel mondo hanno cominciato a diffondersi tanto tutte queste schede tipo Raspberry e compagnia, sono state uno spunto per avere più Linux in giro per il mondo? Senz'altro. E, diciamo, dal mio personale punto di vista, cioè almeno nel mio piccolo, io ho una Razorock che non so pronunciare perché è Rad con la X e poi la Razza, e la chiamo, è sostanzialmente un Raspberry Pi un po' più potente comunque, e mi ha permesso, cioè a me non ha permesso il passaggio a Linux perché già utilizzavo Linux, però sicuramente mi ha permesso di crescere da un punto di vista di abilità, nel senso che ci ho smanettato parecchio, ogni tanto facevo dei disastri, però stavano tutti lì. Ad esempio mi sono fatto il mio on cloud casalingo, quindi e anche molti altri servizi. E sono favorevole comunque, anche ad esempio il Raspberry, poi ci sarà l'utente Linux un po' più orientato più all'etica, che dice ma i driver non sono completamente liberi. Ok, però diciamo può essere un ottimo compromesso sicuramente, soprattutto perché il rapporto qualità-prezzo è imbarazzante più delle volte. Sì, beh, le schedine di questo tipo ora con 35 euro te le porti a casa e fanno davvero l'impossibile. Cioè il Raspberry 3 ormai è paragonabile, anzi è più potente dei NetOp che sono usciti qualche anno fa come processore, quindi assolutamente sono di ottimo livello. La cosa bella è che c'è tanta gente che li usa mettendo, che ne so, sopra Kodi, senza pensare che è Linux. Sì, ma in realtà questo vale per qualsiasi altro dispositivo in commercio, nel senso molti televisori ad esempio si basano su Linux perché è facile prendere il kernel e modificarlo sulle cose che servono per le schede piccole. Con Windows non puoi fare, c'è il Windows Embedded, ci ho avuto a che fare ed è un casino della miseria. Mentre esatto. Linux è molto più facile e soprattutto se hai gli skill fai esattamente quello che serve a te, soprattutto facendolo consumare meno perché metti solo le cose che servono. Scusa Francesco, ma il Windows, questo qui che dice era quello che per cui avevamo detto Windows gira su Raspberry 3. No. Allora, lo so, è quello IoT, eccetera. Windows di quello parlo. IoT, secondo me, è l'inseguimento Microsoft a questo botto delle schede embedded perché si è accorto che stava perdendo il treno alla grande. Ma l'embedded è quello che, per esempio, c'è nei bancomat. Piuttosto che nei controlli numerici alcuni macchinari. Praticamente è un Windows piccolo che ha solo le funzioni basilari per poter far lavorare quel macchinario lì. Per esempio, alcune casse dei supermercati hanno Windows Embedded. Quello che vedi spesso crashato con scritto la finestrina Windows. Anche sì, secondo me l'embedded è quello che c'è nei cartelli delle ferrovie e queste cose qua. Nella metropolitana, ti senti? Sì, giusto, giusto. E più delle volte sempre in blue screen. No, e io ci ho lavorato avendo lavorato in un'azienda che faceva macchinaria a controllo. Per esempio, il passaggio da XP a 7 è stato un bagno di sangue. Anche da 7 a Windows 10. Non lavoro più in questo settore, quindi non ho più seguito questa cosa, ma tipo da 7 a Windows 10 in ufficio qualche difficoltà ce l'abbiamo avuta. Esatto. Ma quella era per la roba delle compatibilità anche hardware? Non tanto sull'hardware, ma quanto sul software. Ci sono delle banche, io ho comprato dei PC nuovi, li ho consegnati, e poi quando ho dovuto mettere su il software della banca a quella che si occupava di fare i bonifici per le paghe, il tipo della banca mi ha detto, no, il nostro software funziona solo su 7. Ecco, vedi, poi facciamo i standard, usiamo... Attenzione che... su quel sistema operativo. Se io gli... ci ho provato, senta, ma se mettiamo Linux? Ah no, funziona solo su Windows 7. Madonna, ma al giorno d'oggi che vorresti fare tutto, cioè fai un programma che gira dove vuoi tu, fai una bella web app per l'interfaccia. Assolutamente no, è un software che si installa, che usa delle librerie specifiche e basta. Esatto, ma le librerie specifiche non sono per il programma, perché il programma farà due conti, il problema è per l'interfaccia quasi sempre, perché uno vuole sempre avere il programma nativo di quella macchina lì, ed è quasi sempre quello il problema, almeno secondo me. No, sarebbe fattibile, però in genere, almeno per chi sviluppa tutto Windows, lo pensa come un bloccone unico, e quindi è quella cosa che funziona lì con quella finestra lì, e basta. Non c'è quella separazione dei servizi che dicevamo prima, eccetera. Linux di suo ha tutti questi vantaggi. Lo svantaggio che io vedo in Linux è che se ci devi mettere le mani dentro è un po' più difficile di quello che è Windows. Cioè il pannello di controllo di Windows, tutto sommato, se leggi ce la fai, se devi mettere le mani nelle configurazioni nei file di configurazione di Linux è un po' più ostico. Sì e no, cioè, Rosario, dimmi anche tu la tua opinione. Io sono quello che dicevi tu di prima, anche della segretaria in banca. Se tu le dai un sistema Linux che fa quello che deve fare, lei non metterà mai le mani nel sistema, è solo schiacciare i bottoni su un programma o su una web app o quello che vuole. E però se anche in Linux vuoi cambiare cose core importanti, anche lì diventa un casino. Dipende da quello che devi fare, e su tutte e due le macchine può diventare complicato oppure essere estremamente semplice. Diciamo che il problema principale in questo caso è più l'assistenza, nel senso manca quell'azienda esterna che supporti la banca, ad esempio per creare il servizio di cui necessita, però in ambiente Linux. Quindi là si parla, oppure addirittura l'azienda che invece già l'ha realizzato e magari lo offre, cioè manca questa comunicazione fra... diciamo l'azienda utente e l'azienda che ha sviluppato un software, oppure manca la voglia di investire, perché poi il problema essenzialmente sono sempre i soldi. Sì, anche se a volte il bisogno di cambiare, quindi effettuare magari una migrazione dei sistemi da ambiente Microsoft a Linux avviene quando mancano i soldi, quindi bisogna risparmiarli. Sì. E a volte non sempre ne vale la candela, e quindi molti effettuano poi la migrazione. Guarda, io in questo contesto mi è fatto venire in mente che ultimamente ho letto un libricino che era stato prodotto nell'ambito della migrazione nella PA Umbra da tutta la suite Office a LibreOffice, che sarà una bella letturina molto veloce, poi ve la linko. Qui si parlava proprio di questo, hanno fatto un'analisi iniziale del risparmio, diciamo, il problema è sempre quello che tu vedi al corto e al lungo termine. Cioè tu consigli il software libero a lungo termine, ti andrà sempre bene, perché potrai, poi sei meno legato a un produttore, oppure come diceva l'esempio che faceva Francesco, non devi per forza avere la versione di sistema operativo e basta. È una lettura molto carina, poi se ci avete un attimo ci potete dare un'occhiata. Sì, diciamo nell'ambito della PA i problemi sono anche altri, cioè da un punto di vista burocratico ma anche da un punto di vista di disponibilità del sostanzialmente dei dipendenti a effettuare un cambiamento, perché c'è questa resistenza al cambiamento che la vediamo in piccolo quando si parla dell'utente che viene ad esempio il mercoledì a farsi aggiustare il computer, e la vediamo ancora in maniera più grande con gruppi di utenti che possono essere ad esempio i dipendenti di una PA. Il trucco, secondo me, da questo punto di vista sarebbe creare un ambiente, magari, cioè, invece di migrare un'intera azienda, ad esempio, a Linux, dicendo ai dipendenti: guardate, da lunedì iniziate con Linux. Molti fanno così, purtroppo, soprattutto i privati, perché i privati sostanzialmente dicono: noi facciamo il cambiamento perché risparmiamo, poi chi ti va bene, ok, non ti va bene, ciao. Mentre magari partendo da piccoli uffici si può anche sperimentare, nel senso: mi manca quel tastino che su Microsoft Windows ce l'avevo perfetto, mi manca questa cosa, magari si investe qualcosina, perché gratis non si può fare una migrazione, e magari si migliora. Guarda, sono completamente d'accordo, però secondo me c'è anche un problema anche di infrastruttura, cioè diciamo che anche in un'azienda grande, se vuoi far cambiare un dipartimento solo da Windows a Linux, anche le questioni di compatibilità stupide tra i formati che usa un sistema e un altro, cioè il lavoro combatto tutti i giorni con gente che manda file Word avanti e indietro, quando poi basterebbe mandare il testo, per dirne una. E lì la cosa diventa un pelo, cioè, come dici giustamente, più il gruppo è grosso e più la resistenza aumenta esponenzialmente, ovviamente per una questione di inerzia. Sì, diciamo, secondo me ad esempio nell'ambito della pubblica amministrazione sarebbe interessante far passare inizialmente delle circolari dove si comunica ai dipendenti di comunicare attraverso open standard, ovvero PDF e tutti gli ODF, TXT, infatti sarebbe, mi inserisco, il problema del TXT è che non è figo. Io conosco aziende dove ma davvero, dove i direttori dicono: no, il file me lo devi mandare formattato in questo modo perché è più bello da leggere. E questo il problema. Però col PDF si potrebbe, col PDF versione A si potrebbe fare, perché è un open standard. Okay. Ad esempio, una cosa carina che io ho fatto, siccome io partecipo anche a attività di Coder Dojo, non so se sapete di cosa si tratta. È una realtà bellissima, magari visto che l'abbiamo chiamato in causa, dopo lo raccontiamo per gli ascoltatori. Ok, io ad esempio, diciamo, in quell'attività c'è il problema delle liberatorie per i minori, perché sostanzialmente essendo un'attività senza fini di lucro e soprattutto svolta da tanti mentor, ragazzi che sono ragazzi giovani e a volte minorenni anche loro, ho creato un PDF che può essere compilato. Quindi ad esempio tu lo apri da qualsiasi sistema operativo, lo modifichi con nome, cognome, dati, i dati che servono, e me lo rimandi indietro già compilato. Ok. E queste, diciamo, sono piccole cose che la gente non conosce e che possono essere fatti soprattutto con gli open standard. Beh, io vedrei anche altre mille soluzioni per questa cosa, anche un mini servizio web per farti mandare solo i dati. Quindi basta una paginetta web e la roba ti viene via. Però capisco che la gente non... cioè, per molte persone la roba... E però nell'ambito delle liberatorie serve la firma. Quindi lo devi compilare, stampare e far firmare. Solo per i dati personali, tipo voglio avere i dati di questa persona. No, serve proprio la firma del... Okay. Io infatti molte volte poi mando la mail con già il PDF compilato, devono solo stamparlo e firmare. Ok. Ma per tornare un attimo velocemente alla roba del testo, io per dire, le mie mail le scrivo in Markdown, che è una roba tipo testo, però che c'ha un po' di, come dire, viene compilato in HTML, quindi lo scrivo in testo puro e poi la mia mail viene poi ricompilata, è una cosa molto carina con gli header, le liste e tutto, però di base... Sì, la utilizzo molto con editando le voci di Wikipedia. Per esempio, sì, quello è un dialetto Markdown. Il problema è che se voi prendete la segretaria classica che fa i verbali e le insegnate a usare Markdown, vi sputa in un occhio. Cioè... Guarda, è di una stupidità. No. Il problema è che l'utente medio non ha proprio voglia di imparare. Cioè, io su quello sono d'accordo. Ho vissuto il passaggio non software libero, non software libero, ma banalmente il passaggio da una piattaforma di mail a un'altra. La parte difficile non è stata quella di migrare, è stata quella di insegnare alle persone che il pulsantino nuova mail è stato spostato di 2,5 cm. Cioè, io non la vedo questa problematica. No, il problema è che per loro c'è. Il fatto che il fatto che sia formattato diversamente, se tu gli dici anche che devi usare maggiore e minore, mettere delle cose che si chiamano tag, non ce la fanno. Il problema più grosso sempre è sempre la parte finale, cioè chi usa le varie cose. Lo so. Moltissima gente lavora sul PC, ma anche a casa propria, fa sempre le stesse cose e patisce qualunque tipo di cambiamento. Io non vi sto a dire che cosa è successo a casa di parenti quando sono passati da 7 a 8. Che per me non vedo una grossa differenza. Ecco, no, perché il menu start era diverso, non c'era più il pulsantino e queste cose qua. Sì, sì. L'interfaccia e questa cosa qua, il cambiare le modalità di utilizzo crea delle difficoltà, perché secondo me quello che fa Microsoft nelle scuole è abbastanza sbagliato, poi loro lo fanno perché devono guadagnarci, è legge di mercato e hanno dei soldi da investire perché poi gli tornano, perché tutti quelli che escono dalle scuole medie e dalle superiori hanno lavorato su PC Windows. E farli cambiare su Linux a loro non interessa. Se tu invece gli insegni a lavorare sui vari sistemi, non per forza soltanto Linux, uno e l'altro, li fai scegliere. E... Francia, ma qua cadiamo nel discorso come nella religione. Ah, ma senza ombra di dubbio. Diciamo, nell'ambito di helpdesk, se ne sentono di tutti i colori, una leggenda metropolitana, diciamo... a me è capitato di sentir dire ma se viene sostituito il monitor le icone mi spariscono. Il fatto è attenzione, che in certi casi non sono così leggende metropolitane. Io ho visto gente che per riavviare il PC spegneva e riaccendeva il monitor. Perfetto. C'è riuscito, scusa. Avendo a che fare con lo user medio scopri delle cose che in effetti tu non ci avevi mai pensato, perché per te sono talmente basilari, ma loro non è una cosa che gli interessa, loro lavorano perché devono fare quel mestiere lì. Sì, infatti è per questo che anche che nell'ambito dello sviluppo software esistono i beta tester. Sì, perché chi fa codice non si aspetta la reazione fatta in un certo modo dello user. Cioè, tu non ti immagineresti mai che lo user va col mouse a cliccare in quell'angolino lì che tu non hai neanche guardato. Il problema è proprio questo. E se tu gli cambi le carte in tavola da sotto, la cosa diventa veramente difficile, perché poi chi è che deve sopportare gli utenti che si lamentano? Indovinate un po'. Tu. Ecco. Esatto, ma infatti nell'ambito delle migrazioni secondo me è importante che il team che effettua la migrazione valuti anche questi aspetti. Per esempio, tornando un attimo alla Apple, diciamo, che non, ad esempio io non la amo particolarmente come azienda, penso lo sappiate, cioè l'abbiate intuito. Sì, sì, sì, comunque, è giusto un po'. Comunque... È l'azienda che investe tantissimo sul supporto, cioè la gente non deve davvero muovere un dito per risolvere i problemi con tutti i prodotti Mac. Ma hanno scoperto che meno la gente ha bisogno di muoversi per risolvere un problema, più è contenta. Guarda, io in generale quella storia che dicevo prima anche del prezzo, c'è anche da dire che i prodotti Mac in genere costano di più, però hanno due cose: loro investono tantissimo sul supporto, è una cosa che si vede, io l'ho utilizzato spessissimo, e anche il design, devo dire, è una cosa da sottovalutare, quindi ho utilizzato anche altre robe non Mac, però ne risentiva anche il modo in cui tu utilizzi l'oggetto, cioè c'è un valore in più, diciamo non morale, però pagando di più ottieni qualcosa in più che non è esattamente quello che tutti vogliono. Però io uso il mio portatile Mac che utilizzo, mi ci trovo benissimo, anche se non utilizzo quasi nulla del sistema Apple, anche la roba cloud non sia mai, cioè non la toccherò mai. Tra l'altro vi consiglio di andare sul sito opensource.apple.com e vi fate quattro risate, nel senso, perché ad esempio io, diciamo, avevo visto anche la scaletta che mi avete fatto vedere sulla puntata, no? Si parlava di quanto c'è di Linux in cioè non di Linux, ma quanto c'è di software libero in Mac e quanto c'è di software libero in Windows, e bene o male abbiamo parlato di questo, però la cosa divertente è che se voi andate appunto su quel sito vedete tutta la suite che sembra quasi il mondo GNU messo lì sfoggiato dall'azienda Apple. Ad esempio Bash, Emacs, cioè troviamo Emacs in quella pagina ed è molto divertente per me. Ah, c'è anche Nano, vedo. Sì, sì. Non sono tutte robe fatte da Apple, scusatemi, io pensavo così. Esatto, è quello. Sì, oppure sì. Se andate nel, ad esempio, Android, iOS, e andate a vedere le licenze, vi accorgete che licenze ci sono e quindi che software c'è nel vostro sistema operativo mobile. Postgres, Spam Assassin, no? Apache, bello. Tutta roba mai usata, mai sentita. Ok. Bene, bene. Allora, io direi che possiamo andare verso la chiusura della trasmissione, solo visto che abbiamo parlato di Linux, abbiamo parlato di Linux Day, chiederei un po' di riferimenti sulla parte di Linux Day e soprattutto a questo punto, visto che Rosario è l'organizzatore di quello di Torino, un po' che cosa si farà in quello di Torino e come si raggiunge, così facciamo un po' di pubblicità di questo evento bello. Ok, volentieri. Allora, Linux Day a Torino si terrà presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, via Pessinetto 12, sostanzialmente, per chi conosce, Piero della Francesca. Le attività che stiamo cercando di organizzare al meglio sono sostanzialmente talk, principalmente. I talk sono 16 e spaziano tra i, diciamo, diversi argomenti del software libero e open source. Ovviamente sono suddivisi in quattro categorie. Noi le chiamiamo le categorie base, dev, sys, quindi system administration, e misc, che è dove, diciamo, una miscellanea di vari argomenti che possono spaziare tra questioni tecniche come embedded a questioni un po' più sociali come ad esempio che cos'è Wikipedia, oppure come diciamo operare nell'ambito open source, nell'APA, all'università ad esempio anche. Poi, oltre ai talk, la manifestazione consta anche di quattro attività particolari. Il LIP, che per chi non lo conosce è Linux Installation Party, dove sostanzialmente qualsiasi visitatore può portare il suo computer o cellulare e noi possiamo aiutarlo a migrare al software libero, ovviamente solo software libero, nel senso che se un visitatore ci chiede di installargli Windows 10 sul computer, gentilmente lo mandiamo da un'altra parte. Ma c'ha bene. Poi un'altra cosa particolare che è gestita dall'associazione dei Restarters Torino, si chiama Restart Party, dove praticamente ripariamo anche da un punto di vista hardware gli oggetti che la gente porta, che può essere il frullatore, ma può essere anche un computer. Poi l'attività di cui discutevamo prima, il Coder Dojo, è un Coder Dojo un po' particolare perché si uniscono due associazioni di Coder Dojo a Torino, il Coder Dojo Torino affiliato al MUPIN, Museo del Piemontese dell'Informatica, e Coder Dojo Torino 2. Sarà un Coder Dojo particolare appunto perché si uniscono due realtà per fare un mega Coder Dojo, tra l'altro nella settimana di Code Week, dove praticamente si utilizzeranno programmi liberi e un po' si farà cultura anche presso i più piccoli. Io ho perso? Di, pronto? Rosario? Libero, open source. E poi per bello, finire, ultima chicca che stiamo organizzando e speriamo vada in porto, ottimo, un piccolo allestimento museale di retrocomputing. Abbiamo perso, orientato ovviamente sulla storia. Oggi è stata, come dire, l'interlocutore oggi è stata veramente una puntata difficile. Guarda, se muoio io o tu nel mentre, uno chiuderà la trasmissione, spero. Ci siete? L'abbiamo assolutamente perso. Ottimo. Non c'è più. Vabbè, tu ne sai qualcosa del Coder Dojo di che stavo? Allora, il Coder Dojo essenzialmente è un'attività per bambini che insegna loro a programmare, i fondamenti della programmazione, ma per bambini piccoli, nel senso che se tu hai il figlio 6, 7, 10 anni, lo porti con un PC portatile qualunque e loro gli insegnano le basi della programmazione. È un'attività molto molto interessante, e soprattutto per mettere i bambini nell'ottica di cominciare a lavorare con il cervello. Oggi è una giornata un po' iellata, c'è Giuliano che ci sente ma non riesce a parlare, che ci ha detto che i bambini programmano con Scratch, che è un linguaggio bellissimo, nel senso si programma senza scrivere codice ma applicando solo la logica, c'è il blocco if, c'è il blocco ciclo, eccetera, e si comincia a capire cos'è un algoritmo. Intanto mi sa che Rosario l'abbiamo perso definitivamente. No, sono tornato. Oh, ecco. Che bello, che bello, che bello. Meno male. Tra l'altro dopo 10 minuti che parlavo da solo. Sennò comunque Francesco ha finito di introdurre il Coder Dojo di cui parlavi prima. Ok. Solo una domanda. C'è Giuliano che ci ha detto che si programma con Scratch. Qui a Torino come sarà fatto? Con Scratch o con altro? Allora, in realtà l'attività di Coder Dojo, Scratch è una piccola parte, nel senso pensavamo di strutturarla un po' più, diciamo, con diverse attività. Ad esempio una interessante è quella di CS Unplugged, Computer Science Unplugged, che è sostanzialmente un libro che descrive diverse attività che si possono fare nell'ambito dell'informatica senza l'utilizzo di computer. Ah, carino, ci lasci poi il link nel documentino? Sì. Grazie. Sì, volentieri. Tra l'altro è con licenza Creative Commons, quindi vi posso direttamente dare il file. Bello di queste licenze. Molto bene. e poi da segnalare come altra attività un allestimento museale di retrocomputing che faremo all'interno del Linux Day quest'anno. E quindi ci saranno macchinari vecchi come Commodore 64, l'Apple 2, queste cose qua? In realtà no, perché come attività di retrocomputing ovviamente volevamo raccontare una piccola parte dell'open source, del software libero, cioè quindi raccontare questa storia, quindi ovviamente il Commodore non rientra in questa storia, okay. Però magari... potremmo far vedere delle vecchie versioni di Linux, mm-hmm. Ma anche altre sorprese che non vorrei non vorrei anticipare, cioè venite a Linux Day e sicuramente apprezzerete. Bene, bene, per tutti gli ascoltatori di Torino e provincia l'invito è esteso. Io sottolineerei anche il fatto che non è per nerd, nel senso il Linux Day è anche per chi non sa niente di Linux, Cioè, se sì. avete sentito in giro la parola Linux e non sapete cos'è, venite a Linux Day, nei talk basilari vi si spiega cos'è Linux. Quindi una introduzione al sistema operativo open source, dove si può mettere, come si usa, cosa fa, cosa non fa, anche per chi non ne sa niente. Quindi non è solo per chi è malato di informatica come siamo noi qua nel podcast, ma è anche per il cugino o per lo zio, direi. Sì, senz'altro. Molto molto bene, direi che la scaletta l'abbiamo affrontata tutta. A questo punto potremmo passare alla fase finale con i contatti. Allora, se Rosario ci vuoi dare il tuo contatto Twitter, perché io sì. non lo so pronunciare, tu ti sei cercato un nome che io non ci riesco. Ok, vi do la spiegazione così riuscite a scriverlo. Sostanzialmente il mio nome è Rosario, al contrario è al posto delle O 2-0, quindi Oiraso. Con 0 e all'inizio è 0 come penultima lettera. Poi il sito del Linux Day? Il sito del Linux Day è linuxdaytorino.org per quello di Torino, e linuxday.it per il nazionale, dove potrete vedere il Linux Day più vicino a casa vostra. Molto bene, c'è anche la parte di Facebook, quindi c'è la pagina Facebook del Linux Day Torino, basta cercarla su Facebook. Mentre i contatti del podcast sono sempre i soliti, quindi ci trovate su gcookiescast su Twitter, gcookiepodcast@gmail.com come posta, e gcookies.github.io per il sito. Tutti gli altri contatti, che ne abbiamo 700 milioni, quindi abbiamo tutte le piattaforme possibili di podcasting, di social media, andate sul sito, ci sono tutti i link. Ci sono anche i link con i crediti della sigla, che anche lei è in Creative Commons. Vi ricordiamo che se comprate su Amazon, passando dai nostri link, ci lasciate una altissima percentuale che Amazon ha ridotto ancora, mi pare, all'1%. Sì, roba. Quindi quando voi acquistate una qualunque cosa, voi non spendete un centesimo di più, e l'1% di quello che avete speso arriva a noi, tranne che se comprate delle scarpe, che la percentuale diventa magicamente del 10, ma vabbè. È difficile. E Mario, ti sento malissimo e con un sacco di rumori di fondo. Ah, ok. Vabbè, non so, non ho toccato niente, però potrebbe essere oggi tornato sfigato. Sì, oggi l'audio ci rema assolutamente contro. Sì, io ti sto perdendo anch'io, quindi direi assolutamente chiudiamo. Molto bene, ringraziamo il nostro ospite, ringrazio Mario, salutiamo Giuliano, che oggi praticamente non è riuscito a partecipare per colpa del microfono. Nei prossimi giorni faremo un troubleshooting più approfondito. Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto da Torino. Grazie a voi. Grazie a te per essere stato qui. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao.